Spunta il giorno quando è sera nell'inverno e quando torna primavera. Amo questa mia Parigi, quando piove spunta il sole. L'amo tanto perché il mio amore di Parigi, perciò I love Parigi. L'amo quando spunta il giorno, quando è sera, nell'inverno e quando torna primavera. Amo questa mia Parigi, quando piove spunta il sole. L'amo tanto perché il mio amore è di Parigi, perciò I love, perciò